Questo è perché i sogni se li porta dietro, perché non ha più un cassetto dove metterli. La realtà ti scaglia addosso tutta la sua ira. È bella quando ride, ma hai denti da vampira. E pensa se la prendi alla leggera, lei ti stira. La vita è una puttana, lo era anche da bambina. Dove vivo io non si sta proprio da Dio. Volerei lontano fossi mio, fin da Morfeo, caro amico mio. Una vita senza sogni, vivo da sonnambulo. Crederò il mio angelo cercandolo in ogni angolo. Me lo trovi, mandalo, così ci chiacchierò un po'. Vedrò ciò che sarò, è impossibile, lo so, ma se ci sei lo saprò. Do importanza alla tua esistenza, si sa la tua presenza qui non è da permanenza. Pensa meno a me, ma custodisci la mia essenza. Prima che riprenda coscienza, tienimi su in alto, perché cerco il caldo, voglio il sole sopra il palmo. Ti chiedi mai se siamo veramente liberi? Troppo su ti assideri, poi qui sotto gli inferi. Mefisto è nascosto tra i mammiferi. Gli angeli li vedi, ma non li consideri. Yeah, yeah. La realtà ti scaglia addosso tutta la sua ira. È bella quando ride, ma hai denti da vampira. E pensa se la prendi alla leggera, lei ti stira. La vita è una puttana, lo era anche da bambina. Ho ali sulle scapole, sogni dentro scatole. Al buio senza fiaccole, su un nido di tarantole. A volte sulle nuvole si avverano le favole. Ma se casco mai di sotto, atterro sulle scivole. Qua dove non ci protegge Fatima, ma detta legge Satana. Chi compra vende l'anima e poi qualcuno sanguina. È il diario della strada, è scritto con il sangue e non è una fiaba. La grana assassina come l'orca. C'è qualcuno a cui non pesa avere la coscienza sporca. Tolta di mezzo un'altra vita già rotta, ridotta alla polpa. A loro non importa stavolta. Portati un angelo vicino come la scorta di Borsellino. O ci sarà una corda o ci sarà un cecchino. C'è chi non si scorda che è senza destino. La realtà ti scaglia addosso tutta la sua ira. È bella quando ride, ma hai denti da vampira. E pensa se la prendi alla leggera, lei ti stira. La vita è una puttana, lo era anche da bambina. E le mie ali nelle tue mani non ci finiranno mai. Non faccio regali. E nelle mani, no, gli sporchi infami. Io non ci finirò mai. Niente legami. No, no, no, la mia libertà io non te la do. Anche se non ce l'ho, al 100% la riprenderò. Su queste piste misteriose, spine miste a petali di rose come una ciste. Fastidiose e triste, come vanno qui le cose. Poche le persone generose, troppe le invidiose. Dimmi se ti ho mai chiesto di seguirmi nel buio, l'oblio, dove la musica è il mio parapendio. Sospeso nel cielo sullo sfondo di una città che vedo solo io. Non so se puoi percepirlo da lì in fondo, ma so che non capisci cosa sento quando affondo. E vedo nero intorno, prendo il volo e non so se ritorno verso l'alba di un altro giorno. La realtà ti scaglia addosso tutta la sua ira. È bella quando ride, ma hai denti da vampira. E pensa se la prendi alla leggera, lei ti stira. La vita è una puttana, lo era anche da bambina. La realtà ti scaglia addosso tutta la sua ira. È bella quando ride, ma hai denti da vampira. E pensa se la prendi alla leggera, lei ti stira. La vita è una puttana, lo era anche da bambina.